25, un bambino è messo all'asta. Nei mesi che seguirono, Anna fu tenuta in una tale considerazione dal re da essere immune da alcune delle vessazioni che rendevano difficile la sua vita di ogni giorno. Ma l'interludio di pace dopo la morte della principessa fu breve e anche durante questo periodo non fu completamente tranquilla perché l'atteggiamento vendicativo dell'interprete che abitava vicino non si placò mai. In luglio l'avevano derubata, quasi sicuramente dietro suo suggerimento. In ottobre portò di nuovo lo scompiglio nella sua casa. Una mattina, poco tempo dopo il ricevimento, sobbalzò udendo un gran clamore nel vicolo che delimitava il suo muro di cinta. Nella confusione colse una frase che indicava che Monchi era nei guai. Si affrettò al piano di sotto per vedere cosa succedeva. Quando arrivò al cancello, il fragore era cessato, se non per un fievole lamento. Monchi giaceva per terra, quasi incosciente. Aveva gli abiti strappati e macchiati di sangue e il suo turbante era sul pavimento accanto a lui. In testa aveva dei lividi e un occhio si era molto gonfiato. Bibi arrivò di corsa, insieme ad alcuni vicini e con il loro aiuto le due donne riuscirono a riportare il vecchio nella sua stanza. «Cosa gli è successo?» chiese Anna ai vicini. «Chi lo ha picchiato? Nessuno ha visto niente!» Allora uno spiegò che Monchi era in piedi vicino al cancello quando si erano avvicinati l'interprete e i suoi servi di ritorno dal fiume. L'interprete si era fermato e aveva ordinato al dignitoso Monchi di inchinarsi. Monchi aveva rifiutato, allora aveva ordinato ai servi di picchiare il vecchio finché si fosse prostrato come si deve fare dinanzi al mio rango. E loro lo avevano aggredito con le mazze. Monchi si lamentava nel letto e continuava a chiedere: «Sono una bestia per essere obbligato a strisciare davanti a questi principi infedeli? Sono un cane miscredente per essere costretto a leccare la polvere su cui passano? Oh figlio di Jafur Khan, come sei caduto in basso!» L'orgoglioso vecchio persiano non era un siamese. Lei non intendeva permettere a nessuno di imporre l'usanza della prostrazione nella sua casa. L'aveva rifiutata per sé dall'inizio e la rifiutava per Monchi e per Bibi. Il vecchio era sempre gentile secondo i costumi del suo paese e questo bastava. Inoltre, lei odiava la prostrazione, che rispecchiava la schiavitù. Ogni uomo si doveva prostrare davanti a un superiore ed esigeva lo stesso atto di sottomissione da un inferiore. Non appena le ferite di Monchi furono pulite e medicate, Anna si mise il cappello e si recò al palazzo del Kralahome a fare le sue rimostranze. Nei 18 mesi che aveva passato in Siam, si era recata spesso da lui per chiedere aiuto. Nutriva un rispetto sincero per il senso di giustizia del primo ministro. Non era allegro e cordiale come il grasso principe Wongsa, il medico e fratellastro del re, il siamese più popolare di Bangkok tra la comunità europea e americana. Non era affabile, non aveva le capacità né possedeva i modi gentili del secondo re, ma aveva un grande potere bilanciato da un'acuta intelligenza. Anna gli aveva sottoposto molte ingiustizie, generalmente subite da qualcun altro, e lo aveva trovato equo, mai davvero cordiale, mai davvero preoccupato per i principi astratti della giustizia, ma giusto. In un paese ancora governato secondo antichi modelli, era molto, dal momento che i tribunali in generale decidevano in favore di chi poteva pagare la cifra più alta. Il governo solo di nome si atteneva alla legge, di solito faceva il volere del re e dei signori feudali. Ogni grande nobile aveva il suo tribunale con giudici che dispensavano la sua giustizia. Anche la nascente forza di polizia sotto il signor Ames aveva solo giurisdizione nella zona del Gran Bazar. La sua autorità non si estendeva a quella riva del fiume. Anna, quindi, poteva scegliere di sottoporre il caso al Kralahome o al console inglese, e finora era stata restia a rivolgersi al console. Vostra Eccellenza, attaccò senza preamboli non appena fu ammessa nel suo studio. I servi di suo fratello hanno picchiato Monchi davanti alla mia casa perché si è rifiutato di prostrarsi. Mi oppongo fortemente a questo insulto verso un vecchio servitore e verso di me e mi rivolgo a lei per ottenere giustizia. Il vecchio è un pazzo, replicò il primo ministro con enfasi. Quanto gli succede non mi riguarda. Lo tenga lontano da mio fratello se non vuole che venga di nuovo picchiato o gli ordini di prostrarsi davanti ai suoi superiori come fanno tutti. Se rifiuta di seguire le usanze del paese, perché dovrei proteggerlo? Inoltre, Non ho tempo da perdere per questioni così insignificanti e in futuro non deve disturbarmi con problemi di questo genere. Lei si impiccia troppo in faccende di nessuna importanza. Non mi interessano, se ne ricordi, d'ora in poi, per favore. Può andare. No, ribatté Anna indispettita, non ancora. Non finché non avrò detto quello che devo dire. Sono venuta da lei a cercare giustizia perché la gente in questa parte della città è sotto la sua giurisdizione. Lei qui è la legge suprema ed è suo dovere decidere in casi come questo. Lei è rispettato ovunque a Bangkok e nel resto del paese perché è considerato un uomo d'onore. Non le ho portato via molto tempo, sono solo venuta da lei per avere una sentenza equa quando qualche povero sfortunato non riusciva a ottenerla dai suoi giudici che possono essere corrotti, cosa che non succede con lei. Mi creda, non lo faccio per darle seccature, lo faccio perché mi fido della sua integrità e finora non sono stata delusa, ma lo sono oggi. Dice che quello che è successo al mio vecchio Monshi per lei non è importante, ma io credo che lo sia. È importante perché quello che gli è successo è opera di suo fratello. La sua reputazione di uomo giusto ne soffrirà se permette ai membri della sua famiglia di manipolare la legge. Dice che si tratta di una bazzecola e io dico che è una cosa importante se un uomo nella sua posizione non tiene conto dell'atteggiamento violento di suo fratello e perdona la brutalità rifiutandosi di riparare un'ingiustizia o di riprendere il colpevole. Si girò e si diresse alla porta. Solo un'altra cosa. Sono venuta da lei perché preferivo onorare il governo di questo paese, esprimendo con i fatti la mia convinzione che sia in grado di amministrare la giustizia. Lei mi ha dimostrato che mi sbagliavo. Benissimo. A meno che lei non faccia qualcosa per impedire che l'offesa di stamattina si ripeta, mi rivolgerò dove la parola giustizia non è solo un suono vuoto da ignorare quando entra in conflitto con i privilegi acquisiti. Non la disturberò più con i miei problemi. Posso sempre sottoporli direttamente a Sir Robert Schomburg. Buongiorno. E volò fuori dalla stanza senza dare al Kralahome la possibilità di dire una parola. Mentre usciva dal palazzo incontrò l'interprete che entrava, ma lo ignorò. La stessa sera era seduta in giardino, dove l'aria era più fresca e ricamava una giacca per il compleanno di Boy. Vicino a lei, su un tavolo, c'era una lampada di Argand. Non udì nulla né il rumore del cancello che si apriva e si richiudeva, né il rumore dei passi. All'improvviso sentì un pesante colpo alla testa. Mentre cadeva di lato, trascinò con sé il tavolo e la lampada. Non seppe quanto a lungo rimase senza conoscenza, anche se probabilmente si trattò solo di pochi secondi, ma quando si svegliò era tutto buio, la luce si era spenta e quindi fortunatamente niente aveva preso fuoco. Boy era accanto a lei e cercava con tutte le sue forze di sollevarla da terra, mentre gridava in malese per l'eccitazione con quanto fiato aveva in gola. Bibi, Marie, Bibi, Marie, vieni qua. In un attimo si sentì il rumore dei passi di Bibi, che arrivò di corsa dal fiume dove stava facendo il bagno. Anna cercò di alzarsi, ma si sentiva troppo debole e stordita per muoversi. Tranquillo, Luis, sto bene, mormorò flebilmente e lo abbracciò per rassicurarlo. Quando arrivò Bibi, alla luce della lampada, videro per terra il sangue che proveniva da un taglio profondo nella testa di Anna. La donna iniziò a lamentarsi. Prima mio marito e adesso la mia padrona. Sarò io la prossima. E poi cosa succederà del ciota Baba Sahib? Bibi, smettila, le ordinò Anna debolmente. Aiutami ad andare a letto e prendi delle bende. Bibi e Boy aiutarono Anna a entrare in casa. Il sangue continuava a scorrere dalla ferita. La cameriera corse a prendere degli stracci puliti e dell'acqua, mentre Luis stava chinato su sua madre, con le lacrime che scendevano copiose sul suo viso spaventato. Bibi fu molto svelta e abile. In pochi minuti la ferita fu lavata e medicata. Anna era così debole che precipitò in un sonno profondo. Quando si svegliò il mattino seguente, Luis era seduto su una sedia accanto a lei, con la testa appoggiata al suo cuscino. Anche se si sentiva ancora debole per la perdita di sangue, stava meglio. La testa si era gonfiata, ma le cose avrebbero potuto andare peggio. La pietra era stata scagliata con una gran forza e da vicino, e se avesse colpito la tempia avrebbe potuto dimostrarsi fatale. Quando entrò, Bibi aveva il viso bagnato di lacrime. Monshi sta morendo, disse tra i singhiozzi. Anna cercò di mettersi in piedi e facendosi aiutare da lei e da lui, si andò a vedere il suo insegnante. Fu sollevata nel vedere che non era moribondo, anche se stava ancora parecchio male. La vergogna e l'affronto che aveva subito evidentemente lo abbattevano quanto le ferite fisiche. Mem Sahib, bisbigliò in un sussurro, dobbiamo tornare a Singapore. Con la prossima nave ci uccideranno in questa terra di Kafir. Prima io, adesso lei. Anna cercò invano di convincere il vecchio terrorizzato che era improbabile che una simile catastrofe succedesse di nuovo, dal momento che se il Kralahome non fosse intervenuto, si sarebbe rivolta al consolato britannico per ottenere protezione. Non voleva farsi spaventare. Questi barbari, questi infedeli, piangeva Monshi, scivoleranno in casa e ci taglieranno la gola mentre dormiamo se ci fermiamo un altro giorno. Dobbiamo andarcene con la prima nave, Mem Sahib, prima che abbiano il tempo di ucciderci. Anna lo rassicurò che la sua ferita era superficiale e che era certa che non ci sarebbe più stata violenza. Mentre cercava di convincerlo, convinse se stessa, ma per quanto riguardava Monshi, le sue parole non ebbero effetto. Non aveva fiducia che il console britannico potesse controllare gente corrotta come i siamesi. Alla fine Anna fu costretta a promettere a Monshi e a Bibi che potevano tornare a Singapore col prossimo viaggio del Chow Phya. Non sapeva come avrebbe fatto senza di loro, ma non poteva costringerli a restare. Loro cercarono di convincerla che doveva andare con loro per amore di Boy, se non per lei stessa, ma Anna fu irremovibile. Prima di scrivere a Sir Robert, mandò a chiamare il signor Hunter nella sua veste ufficiale di segretario del Kralahome. Quando gli raccontò quello che era successo, lui guardò le bende sulla testa e il suo viso pallido a lungo e con espressione seria. Poi si diresse rapidamente verso il palazzo del primo ministro. Il mattino seguente fu di ritorno con parecchie copie di un proclama in lingua siamese firmato dal Kralahome che diceva che chiunque fosse stato scoperto a ferire o a molestare i membri della famiglia della signora Leonowens sarebbe stato severamente punito. Mentre se ne andava per collocare le copie in posti visibili nella zona, Anna lo consigliò. A proposito, signor Hunter, si assicuri di lasciare un paio di copie in modo amichevole a casa del mio vicino. L'espressione sul viso del signor Hunter, mentre la verità si faceva strada in lui, era un misto di indignazione, disgusto e disprezzo. Il malvagio pusillanime! Esclamò, mentre si affrettava verso la casa dell'interprete. Passarono parecchi giorni prima che Anna si sentisse abbastanza forte da tornare al lavoro. Il re l'aveva mandata a cercare due volte perché gli serviva aiuto con certa corrispondenza urgente con la Francia, ma lei rispose che era troppo debole e malata e che non era in grado di andare da lui. Quando poté tornare al lavoro, il re la sottopose a un attento esame. Era ancora pallida e aveva la testa fasciata. Prima che si tuffassero nella corrispondenza francese, lui osservò: «Mem, c'è una casa in costruzione nelle vicinanze del palazzo. Se le facesse piacere, ci potrà andare a vivere quando sarà pronta. Le sarà più facile venire rapidamente quando avrò bisogno di lei. Può dare un'occhiata e vedere se le aggrada». Questa era una bella notizia, tanto bella da compensare quasi il colpo in testa. Si sarebbe trovata sulla stessa riva del fiume del palazzo e anche del consolato britannico, e a gran distanza dall'interprete. Inoltre si sarebbe trovata in una zona sotto il controllo del signor Ames e dei suoi poliziotti e vicino alla nuova strada che il re stava costruendo parallela al fiume, la prima strada moderna che Bangkok avesse mai visto. Sarebbe stata anche vicina al dottor Campbell. La consolava quasi anche della perdita di Monshi e di Bibi. Lui era ancora deciso ad andarsene, quindi Anna prenotò due posti sul Chow Phya. Ma all'ultimo minuto Bibi, in lacrime, rifiutò di seguire il marito a Singapore. Quando lei si mise a piangere dicendo: «Come posso lasciare la Mem e il Chota Baba Sahib in questo terribile posto, quando loro sono stati così buoni con me per tutti questi anni? Non possono cavarsela da soli». Lui non la forzò, perciò Monshi partì da solo, non particolarmente sconvolto dalla defezione della moglie. Una moglie, dopo tutto, era qualcosa che un buon musulmano poteva sempre sostituire. Prima di poter traslocare, furono sopraffatti da un'altra sventura. Anna ebbe un violento attacco di febbre. Quella mattina era in ritardo per la scuola, a causa dell'improvvisa malattia di uno dei suoi servi. Quando raggiunse il cancello della città interna e si accorse che l'orologio dell'osservatorio aveva già battuto le 10, si mise a correre e arrivò senza fiato al lungo corridoio che portava alla sua scuola nel tempio. Qui le venne impedito il passaggio da una folla di donne, bambini, schiavi e aiutanti che si affrettavano nella stessa direzione. Anna continuò a farsi strada cercando di raggiungere il tavolo finché si trovò in mezzo al gruppo di donne. Al centro del tavolo c'era l'oggetto che aveva prodotto tanto scompiglio. Nuda, circondata da una folla di donne urlanti, c'era una bellissima bambina bianca di forse 18 mesi. Una massa di riccioli biondi incorniciava il viso, aveva la pelle vellutata e le guance leggermente arrossate, sorrideva alle donne. Se le fossero spuntate le ali, sarebbe sembrato un cherubino di un dipinto di Raffaello. Una donna scura, piuttosto bella, appollaiata sul tavolo vicino alla bambina, gridava: «Signore, vale molto di più di 10 tical, vale il suo peso in oro. Non la venderei a meno di 200, è solo perché sono molto povera e non posso permettermi di tenerla. Guardate la sua pelle, guardate i suoi capelli e guardate le sue manine e i piedini». Mentre parlava con il dito, indicava le caratteristiche. Immediatamente diverse voci gridarono: 15 tical, 17, 20, 25, 30, 35 tical. Poi ci fu un'altra pausa. La donna che teneva l'asta non gridò. Meno 2, meno 1 aggiudicato, come in un'asta occidentale. Ma si rimise a descrivere le qualità della bambina, concludendo con: «Non potete averla per 35 tical, la terrò io, anche se dovessi fare la fame». Ci furono altre offerte per la bambina, che continuava a sorridere, mezzo addormentata, ma si fermarono a 55 tical. La banditrice riprese a elencare le virtù della bambina. 60, 65, 70, 75 tical. L'ultima offerta arrivò da Lady Piam, non la sorella del Crala Home, che aveva portato Anna al palazzo la prima volta, ma una delle consorti del re. Non era tra le amiche personali di Anna, anche se era la madre di due suoi allievi. Apparteneva alla piccola consorteria delle signore potenti che dominavano l'interno ed era l'unica donna che aveva saputo manovrare il re con successo. Non era graziosa, ma aveva una bella figura. Mancava di istruzione e veniva da una famiglia appena rispettabile, dal momento che era cinese per parte di padre, ma era riuscita dove altri avevano fallito, perché aveva tatto e capiva le persone. Quando si rese conto dell'influenza crescente che aveva sul re, riuscì a conservarla. Era a palazzo da 8 anni e durante quel periodo aveva accumulato una fortuna considerevole. Aveva procurato buone posizioni ai membri della sua famiglia e aveva introdotto nella comunità molti commercianti cinesi. Una tale carriera normalmente lasciava una scia di nemici, ma Kun Chong Piam era diplomatica. Sembrava avere sempre paura. Aveva le sue dipendenze e la maggior parte delle donne che prendevano decisioni all'interno del palazzo. Era umile e teneva un atteggiamento conciliante con le rivali, le quali, anziché esserne invidiose, la compativano. Probabilmente, se avessero previsto che le sue 3 figlie un giorno sarebbero diventate regine, e che lei sarebbe diventata nonna di 2 re e di una regina e bisavola di un terzo, non sarebbero state così ben disposte. Quando la donna che guidava l'asta si fermò ancora, Anna si udì dire con voce esitante: 100 tical. Una sonora risata grandinò sulla sua offerta. Era risaputo che Anna condannava il commercio degli esseri umani. «Cosa ne vuole fare?» chiese Lady Piam. «Ha già un figlio bianco». Quando Anna non rispose, si girò e offrì 110 tical. Improvvisamente Anna gridò con veemenza: 120 tical! Poi ci fu un'altra pausa. La donna cercò di stimolare la folla a offrire un prezzo più alto, ma non servì. La vendita era finita. Tutti si affrettarono a casa per il pranzo. Alcune signore si riunirono intorno ad Anna per chiederle cosa avrebbe fatto della bambina, ma lei non sapeva che rispondere dal momento che non aveva piani. Lady Piam venne in suo aiuto. «Mem, sta pagando troppo per quella bambina, ma mi è piaciuta così tanto che le darò 130 tical se me la lascia». «Cosa ne farà?» volle sapere Anna. «L'alleverò come si conviene e diventerà una danzatrice per il palazzo». «Vede», spiegò Anna, L'ho comprata per evitarle questa vita e non c'è denaro che mi possa convincere del contrario adesso. Questa risposta fece infuriare la cauta Lady Plum, che stavolta se ne andò senza preoccuparsi di nascondere la sua rabbia. Anna tornò verso la donna dell'asta, che era anche la mamma della bambina, e le disse di aspettare la fine delle lezioni. La bimba, stanca per il caldo e l'eccitazione, si era profondamente addormentata. Dopo la scuola Anna portò la donna e la bambina a casa passando dal fiume, fece preparare del cibo e mentre la donna mangiava, Anna prese la sua storia. Disse di chiamarsi Montani, che significava ornamento, e che era stata sposata con un inglese di nome George Davis, che lavorava a bordo di una nave cinese. L'aveva trattata molto crudelmente, lei era scappata con la bambina perché lui le era molto affezionato. Dopo pochi mesi la povertà l'aveva costretta a decidere di venderla. Anna ascoltò la sua storia con simpatia e poi si alzò per prendere il denaro, ma scoprì che in casa non ne aveva abbastanza, quindi chiese a Montani di andare con lei al consolato inglese, dove sapeva che avrebbe potuto prendere in prestito quanto le mancava. In questo modo avrebbe anche potuto farle firmare i documenti necessari, così che in seguito non potessero sorgere dubbi sulla proprietà della piccola. Montani dichiarò di essere d'accordo, ma non volle lasciare la bambina con Bibi perché voleva tenerla tra le braccia il più a lungo possibile. Salirono in barca, prima Montani, poi Boy. Le pietre erano scivolose e quando toccò ad Anna scivolò e cadde a testa in giù nel fiume. Udì un grido e l'acqua si richiuse su di lei. Lottò contro la corrente, ma invano. I pensieri si inseguirono nella sua mente finché perse conoscenza. Quando aprì nuovamente gli occhi, era nella sua stanza, ancora vestita e bagnata sul suo letto. La luce era accesa sul comodino, intorno a lei c'erano tutti i servi, Boy e i barcaioli, ma non c'erano né Montani né la bambina. Mentre portavano Anna in salvo, la donna era scomparsa. Anna mandò via i barcaioli con la promessa di una ricompensa. Bibi si occupò di lei durante le lunghe ore di semidelirio che seguirono. Anna era preoccupata per la scomparsa della bambina, ma il giorno seguente stava troppo male per pensarci. Quando Bibi si rese conto della gravità delle condizioni della sua padrona, si affrettò dai Mattoon a chiedere aiuto. Loro la fecero portare a casa loro e notte e giorno a turno la vegliarono finché la crisi fu passata. Durante il mese in cui mancò da palazzo, Lady Songclean mandò ad Anna quasi quotidianamente dei biglietti. Erano pieni di affetto, anche se la punteggiatura era un po' carente. La lingua siamese non ne faceva uso ed era difficile per tutti i regali allievi capire perché in inglese fosse essenziale. Mia cara signora Leonowens, so che è malata per la caduta dalla barca. Sono triste, non felice. La penso molto spesso. Lei è caduta e adesso è ammalata. Mia cara amica, scrivo a scuola di notte. Son clean. Sabato sera. Mia carissima amica, non capisco molte parole del suo biglietto. Se vuole e le fa piacere spiegarmele, ma spero che venga oggi. Se non viene oggi, il mio cuore è così infelice e penso che nel cuore sono come una persona cieca. Per favore, mi conduca per la strada e non mi faccia cadere nel buio. Da parte mia e di Krita, grande affetto a lui sia a lei, la sua carissima affezionata Songclean. Deve bere la mia medicina molto buona per la malattia. Mi creda, mia cara. Songclean, giovedì mattina. Mia carissima insegnante, mi creda, veramente ho pregato Dio per lei e per il caro Louis, e ho sognato di lei e che starà meglio molto presto, e non sia triste. E mia cara insegnante, non mi dimentichi. E mia cara, ho sognato la medicina, ne beva, o forse non vuole, forse ne beva almeno una volta. Sono la sua affezionata Harriet Beecher Stowe, Songclean. In qualche biglietto, oltre a spingerla a prendere la medicina, la rassicurava che sarebbe stata bene, che non si doveva preoccupare, che lei, Lady Songclean, intercedeva per lei con le preghiere. Inoltre, aveva fatto un voto che avrebbe assicurato la guarigione di Anna. Non appena Anna cominciò a migliorare, si informò su Montani e Ma e Cao, ma non scoprì nulla. Quasi si aspettava di udire che la mamma aveva portato di nuovo la bambina nell'interno e l'aveva rimessa in vendita. Quando riprese l'insegnamento, apprese che non era successo e che non c'era alcun rischio che succedesse. Quando l'avevano vista riprendere il suo posto in classe, le donne siamesi l'avevano guardata in modo strano, come se fosse risorta. Lady Talap le disse: «È stata stregata quando ha fatto l'offerta per la bambina, che in realtà era il diavolo mascherato per distruggerla». Anna ovviamente non credeva che la bambina fosse un'incarnazione del diavolo, ma pensò che fosse un bene che le donne del palazzo ne fossero convinte. Niente avrebbe potuto indurre le guardie a farla entrare di nuovo e per quanto rischiasse la povertà, di certo era al sicuro dalla schiavitù dell'interno. Lady Songclin si prese il merito della guarigione di Anna, l'abbracciò e le disse: «L'ho fatta guarire, l'ho fatta guarire!» «E come?» volle sapere Anna. Il viso della donna si illuminò. «Ho fatto voto di salvare 7.000 vite se fossero state ascoltate le mie preghiere». Anna non rise. Una fede così ingenua non ispirava ilarità, ma risvegliava la sua curiosità. «E come si possono salvare 7.000 vite?» chiese. Lady Songclin era deliziata al vedere che aveva superato in astuzia la sua amica. «Aspetti e vedrà!» Convocò una schiava e le sussurrò qualcosa. Un'ora dopo la schiava tornò con 7 ceste fittamente intrecciate. In ognuna c'erano 1.000 pesciolini. Songclin, Anna e le schiave si avviarono verso il canale aperto che portava l'acqua dal fiume all'harem. Lì, con gran pompa, i pesci vennero gettati in acqua, in modo che 7.000 vite fossero salvate. 26. Le locuste reali. La nuova casa si trovava sul lato orientale del palazzo. Faceva parte di una fila di appartamenti su due piani. Dalla finestra del piano superiore, Anna vedeva il palazzo di Sutaisawan, un lungo padiglione che sovrastava l'alto muro bianco dall'altra parte della strada, da cui il re e la corte guardavano le processioni. Proprio di fronte c'era un'ampia piazza chiamata Sanamchai, o Campo della Vittoria. Prima, per il lungo percorso avanti e indietro sul fiume, occorreva molto tempo ogni giorno. Adesso Anna usciva di casa al mattino, attraversava il Sanamchai e la strada che portava a uno dei bei cancelli che fiancheggiavano il palazzo su Taisawan. Di solito entrava dal cancello a nord, il cancello dell'angelo custode. Erano sufficienti 5 minuti per andare da casa a scuola. C'era un inconveniente. Abitare a poche centinaia di metri dal palazzo la rendeva così accessibile che il re la chiamava sempre più di frequente alla sera, dal momento che a lei piaceva passare la serata con Boy, le lunghe ore serali impiegate a occuparsi della corrispondenza la disturbavano. Spesso veniva svegliata all'una o alle 2 del mattino da un esercito di schiavi urlanti che bussavano alla porta e la portavano alla presenza del re. Le prime volte che era stata svegliata nel mezzo della notte, il cuore di Anna si era messo a battere precipitosamente, nel timore che nell'harem fosse successo qualcosa di terribile, ma l'esperienza le aveva insegnato che non c'era modo di sapere cosa aspettarsi. Una volta i messaggeri del re l'avevano svegliata di notte e le avevano ordinato di presentarsi a palazzo in gran fretta. Si era vestita di corsa pensando che il colera avesse colpito un altro dei suoi figli. Alcune amazzoni, mezzo addormentate, l'avevano fatta entrare e le avevano fatto strada nel dedalo di edifici, fontane e statue grottesche, al buio, fino alla stanza delle udienze delle donne, brillantemente illuminata. Il re giaceva in mezzo alla stanza, lungo disteso sulla pancia, con il mento tra le mani e un enorme libro davanti. Quando Anna si avvicinò, vide che si trattava di una Bibbia inglese aperta sulla Genesi. Si buttò a terra, come le era stato insegnato quando il re era in quella posizione che preferiva per lo studio. Lui si era girato con impazienza verso di lei. «Mem, il suo Mosè doveva essere un pazzo!» «Ma, Vostra Maestà, dico!» interruppe il re con durezza, «che il suo Mosè doveva essere un pazzo!» Dando un colpetto sulla Bibbia, continuò: «Qua c'è scritto che Dio creò il mondo in 6 giorni e riposò il settimo. Lei sa, e io so, e tutti gli scienziati sanno che ci sono voluti molti anni per creare il mondo. Il suo Mosè deve essere stato pazzo a scrivere così. Lei può andare». Quando lei stava per rispondere, le indirizzò un gesto impaziente, rifiutandosi di ascoltare una parola. Prima che Anna arrivasse a Bangkok, era stata una pratica abbastanza normale per il re mandare a chiamare un missionario quando aveva bisogno di aiuto. Il poveretto veniva obbligato ad alzarsi con l'inganno o con la forza e trasportato in barca lungo i 6 chilometri che conducevano al palazzo, perché il re voleva sapere se era più elegante scrivere tenebroso, oscuro o tetramente buio, anziché non chiaramente evidente. Se il missionario assonnato si azzardava a esprimere una preferenza per l'espressione più banale, anziché per quella estrosa, era congedato con ironia, arroganze, persino insulti e mai con una parola di scusa per la scortese invasione nella sua vita privata o un ringraziamento per l'aiuto. Persino Sir Robert Schomburgh non era stato risparmiato. Una sera dopo mezzanotte il re, mentre stava per andare a letto, aveva iniziato a chiedersi come si poteva rendere in inglese con la maggiore accuratezza possibile la difficile parola fi, fantasma, spirito, anima, diavolo, male, angelo o altro. Dopo aver fatto congetture per più di un'ora, ordinò che venisse preparata la chiatta più bella e la mandò a gran velocità dal console inglese. Il console, pensando a qualche grave crisi diplomatica, si vestì con una rapidità non adeguata al cerimoniale, si affrettò a palazzo domandandosi quale evento politico poteva aver spinto il re a convocarlo a ora così tarda, ipotizzando una rivoluzione o una invasione. Lo trovò in déshabillé, alle prese con un dizionario siamese inglese e incerto tra le parole dannato e diavolo. Sua maestà pose la scelta finale al console che rifletté sui diversi usi appropriati per entrambe le parole. Seccato dalla maledetta faccia tosta di sua maestà, poté soltanto decidere con tutta la gentilezza che riuscì a trovare per diavolo e tornare a dormire. Uno dei vantaggi della posizione della nuova casa era che lui poteva avere un pony tutto suo. C'era una stalla vicino dove Anna prese accordi perché tenessero l'animale e la nuova strada, lunga parecchi chilometri, che il re avrebbe inaugurato formalmente in marzo con una grande cerimonia, permetteva di cavalcare in ogni stagione dell'anno. Inoltre, avrebbe potuto insegnare le usanze e le etichette europee ai suoi allievi, portandoli in un ambiente adeguato. La loro vita era così limitata che l'introduzione durante le sue lezioni di idee nuove e diverse dall'insegnamento siamese risultava molto difficile. Le cartine e il mappamondo avevano sovvertito le loro idee sulla geografia e sull'astronomia. Di recente una bellissima ragazza che si chiamava Wani Ratanakania, una nuova venuta, aveva rifiutato con una certa fermezza le idee moderne sostenute dalla sua insegnante. Credo, aveva detto, che la Luna sia la bella figlia del gran re di Ayutthaya, che visse molte migliaia di anni fa, e la prima moglie del Sole, e non una stupida grossa palla di terra e pietra che gira nel cielo solo perché il Sole ci possa splendere. L'amore dei bambini per i disegni l'aveva aiutata ad allargare i loro orizzonti. Erano in grado di farsi qualche idea sul mondo esterno, vedendo altri paesi e altre popolazioni. E ogni volta che poteva, Anna andava in cerca di fotografie o oggetti particolari per mostrarli in classe. Un pezzo di carbone che potevano confrontare con il carboncino che i loro schiavi usavano per cucinare i pasti. Una striscia di vello di pecora con disegni della cardatrice e del filarello di un telaio moderno e campioni di filo e di pezzi di lana. Un giorno il Chow Pia aveva portato da Singapore al re una scatola di ghiaccio. Anna era riuscita ad averne un po' per la lezione. I bambini esaminarono la novità con molto interesse e quando si sparse la voce, anche le donne dell'harem si raccolsero nel tempio per vederlo. Lo toccavano e ridacchiavano nel sentirlo freddo. Poi lo guardavano sciogliersi e trasformarsi in acqua. Con il ghiaccio davanti non era stato difficile per loro credere che l'acqua nei paesi più freddi del mondo si congelava al punto che diventava possibile camminarci sopra. Anna mostrò dei disegni di ragazzi e ragazze che pattinavano nei canali dell'Olanda e tutti furono eccitati e interessati. Ma quando si spinse a dire che in certi paesi la pioggia si gelava mentre cadeva e si trasformava in una sostanza bianca che la gente chiamava neve, tutti si indignarono per quella che consideravano un'evidente esagerazione inventata per imporre loro una ridicola fantasia. La lezione sulla neve costituì un ostacolo per parecchi giorni. Sfortunatamente non era riuscita a trovare alcuna fotografia della neve, I suoi allievi erano in allarme e non accettavano le affermazioni più semplici. La loro resistenza all'insegnamento si rivelò un tale ostacolo che parlò al re delle sue difficoltà e lui venne personalmente in suo aiuto. In piedi a un'estremità del tavolo, un mattino raccontò ai suoi figli che era possibile che esistesse un fenomeno che si chiamava neve, perché i libri inglesi di viaggio che lui aveva letto ne parlavano di frequente. Subito dopo essersi trasferita sulla riva orientale, Anna ebbe l'opportunità di dare inizio alle lezioni sull'etichetta europea. Louis e lei furono invitati dai bambini a prendere il tè. La festa si teneva in casa di una delle defunte regine. L'antico pittoresco palazzo era circondato da un alto muro, in parte in rovina e macchiato dal tempo, pieno di rampicanti, erba e fiori. Quando le custodi aprirono i cancelli del palazzo, Anna vide in distanza un frutteto di arance in piena fioritura. Mentre percorreva il sentiero, nella luce della sera, superò giardini in fiore, fontane luminose e vasche di marmo dove nuotavano pesci colorati, sedili di pietra, alberi di banane e palme leggiadre. Due schiave vestite di scarlatto e bianco erano sedute su panche di pietra in fondo al vialetto. Mentre lui e Anna si avvicinavano, una andò loro incontro per salutarli e li invitò a sedersi su un tappeto. Rimasero lì in attesa per mezz'ora, mentre Anna rifletteva che in Siam, come in Europa, i reali sono proverbialmente in ritardo. Finalmente li raggiunse il rumore di molte voci. I cancelli del palazzo vennero aperti e fecero la loro comparsa le due allieve più grandi di Anna, la principessa Ying Yawalak e la principessa Somawadi. Erano vestite di rosso, oro e blu e ricoperte di diamanti e di preziose gemme che luccicavano i raggi obliqui del sole. Seguiva un esercito di schiave, le quali indossavano gli abiti migliori con ornamenti d'oro e d'argento. Le principesse avanzarono sorridendo lungo il viale verso il tappeto su cui sedevano Anna e Louis. Ying Yawalak, la più vecchia, arrivò per prima. Prese entrambe le mani di Anna nelle sue con ossequio e si inchinò finché le toccò con la testa. La sorellastra, la principessa Somawadi, fece lo stesso. Poi si accomodarono ai lati di Anna, mostrando molta premura verso l'insegnante che ora era anche loro ospite. Subito dopo, una trentina di regali allievi oltrepassarono il cancello. Ognuno seguito da almeno una dozzina di schiavi, per la maggior parte giovani ragazze. Era sicuramente uno strano ambiente per un tè. All'aperto, sdraiate o sedute, c'erano circa 500 persone, tranquille e ordinate, anche se in piacevole attesa. Da un'apertura in un viale di elci comparvero altre ragazze con vesti dai colori brillanti e morbidi drappeggi. Avanzarono a passo di danza, portando tamburini, flauti, cembali e chitarre. La bellezza barbara delle ricche vesti e dei movimenti dei loro corpi suggerirono ad Anna l'immagine di una colonna di selvagge regine che emergevano da una foresta primordiale. Come si avvicinarono al gruppo reale, si lasciarono cadere sul pavimento, coprendosi il volto, e non si alzarono finché la principessa Somawadi diede il segnale. Allora si divisero a formare vari gruppi, l'orchestra, il coro, le danzatrici. In mezz'ora lo spettacolo terminò. A quel punto, schiave riccamente vestite portarono su curiosi vassoi d'oro e d'argento teiere di almeno 10 forme diverse, tutte d'oro e smalto, da cui versarono differenti qualità di tè in tazze impreziosite da gemme. Anna si accorse che si aspettavano che bevesse almeno una tazza per ogni tipo di tè. Ce n'erano una dozzina, o forse più. Il tè alla rosa, al gelsomino, il tè della vita, dell'amicizia, il tè dell'insonnia e molti altri. Lei fu attenta a non offendere le sue ospiti e passò attraverso la cerimonia di assaggiare ogni tè e di lodarli tutti. Ognuno aveva il suo aroma particolare, anche se non tutti erano gradevoli. Fu un'occasione deliziosa, se non per una circostanza. La principessa Ying Yawalak, che aveva unghie molto lunghe e che desiderava mostrarsi gentile verso la sua insegnante Boy, ogni tanto immergeva un'unghia in un piatto di marmellate e la riempiva con una porzione. Poi Come se l'unghia fosse stata una forchetta, l'allungava verso le loro bocche, non lasciando agli ospiti altra alternativa che aprire la bocca e ingoiare con la maggior grazia possibile. Secondo l'etichetta siamese, imboccare qualcuno con la punta dell'unghia era un atto gentile, oltre che romantico, ma Anna quasi desiderò di non avere una bocca, tanto era il disgusto che provava. Alla fine il sole calò e lei e Boy si alzarono per andarsene e, previa autorizzazione del re, invitarono a un tè inglese per il sabato sera successivo i bambini, i quali erano eccitatissimi e felici alla prospettiva di andare a casa di Anna, soprattutto perché si trovava fuori delle mura del palazzo. Il re fu lieto di dare il consenso. Rientrava nei suoi progetti che i suoi figli capissero e conoscessero i costumi europei.